Buonasera a tutti, sono Massimo Bortoletto, mi presento ogni volta, sono il direttore della Feltrinelli di Latina che da qualche giorno ha fatto 5 anni. Il 28 aprile di 5 anni fa abbiamo aperto e in questi 5 anni abbiamo ospitato tantissimi incontri, soprattutto della casa editrice L'Asino d'Oro che da quando abbiamo iniziato a collaborare ogni anno 7, 8, 10 incontri anche sono stati organizzati qui da noi e ringraziamo innanzitutto l'editore che ha voluto, grazie anche però alla richiesta degli abitanti di Latina, perché la spinta è venuta dai nostri clienti che in particolar modo grazie a Alicia Pastore che oggi non è potuta intervenire. Quindi una serie di incontri che hanno fatto un po' l'ossatura delle nostre iniziative. In particolare Federico è stato quante volte qui? Almeno 3 e saranno solo le prime 3 perché continueremo giustamente. Questa sera presentiamo il libro Figli rubati, poi passerò direttamente la palla, il microfono a Federico che ci presenterà anche gli altri ospiti. Normalmente c'è Licia Pastore che fa un po' da filtro, oggi non c'è come dicevamo, quindi noi facciamo lo stesso. La cosa che mi preme dire ogni volta è comprate il libro, perché il libro va bene parlarne, va bene ascoltare cosa hanno da dire l'autore e i relatori, però il libro c'ha dietro tutta un'altra storia, oltre alla spinta iniziale di chi l'ha scritto, chi l'ha pubblicato, chi lavora insieme al libro, quindi diffondetelo sapendo che state facendo un piacere a voi stessi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie Massimo, grazie davvero, grazie a voi per essere qui, ecco, grazie ai miei due amici, Patrizia Sacco di Amnesty International e Andrea Ventura, economista. Adesso leggerei una cosa, poi vi spiego perché ho chiesto a loro di accompagnarmi in questa presentazione. Dico subito, ecco, io stasera sì, sono l'autore del libro ma faccio anche giornalista e stasera farò il giornalista, per cui vi tempesterò di domande perché vorrei che ci aiutassero e che mi aiutassero, ecco, a utilizzare il libro come uno strumento di collegamento tra il passato e il presente. Il libro è un libro d'inchiesta, un'inchiesta, io non sono uno storico, è un'inchiesta giornalistica che però diciamo le sue radici ovviamente affondano in una storia tragica che si è svolta negli anni 70 in Sud America. È mia convinzione nel corso della stesura del libro, appunto mi si è formata una convinzione o comunque un'idea che molte delle scorie prodotte in quegli anni dalle diverse dittature fasciste che hanno spazzato via il debole, purtroppo, vento di rinnovamento del continente latinoamericano, convinzione appunto che tante scorie siano ancora presenti non solo in Sud America ma anche in tanti altri paesi del continente americano, ma anche europeo, in particolar modo l'Italia ancora oggi si trova ad affrontare questioni che secondo me sono molto legate a quel periodo e appunto con Patrizia e Andrea cercheremo di dare una risposta anche a questa mia domanda. Leggo una cosa. Allora, mi risulta molto strano parlarti dei miei figli, come dei quei genitori che non arrivarono a essere. Non so se sei un bambino o una bambina, ma so che sei nato. Ora hai quasi l'età che avevano i tuoi quando sono stati ammazzati e presto sarai maggiorenne anche tu. Loro rimasero per sempre nei 20 anni. Sognavano te e sognavano un mondo più abitabile per te. Mi piacerebbe parlarti di loro e che tu mi parlassi di te, per riconoscere in te mio figlio e perché tu possa riconoscere in me quello che di tuo padre mi resta. Siamo entrambi orfani di lui. Per riparare in qualche modo quello strappo brutale, quel silenzio che perpetrò la dittatura militare nella carne della tua famiglia. Per consegnarti la tua storia, non per allontanarti da quello da cui non ti vorrai allontanare. Ormai sei grande, dicevo. Allora, questi sono alcuni versi di, della carta aperta a mio nieto, cioè carta aperta, lettera aperta a mio nipote, tradotta in italiano dallo scrittore uruguaiano Milton Fernandez, che il poeta argentino Juan Kelman rese pubblica nel 1995 a Città del Messico. Juan Kelman era esule dal 1976, anno in cui uccisero il figlio e la nuora. La nuora che era incinta appunto di un bambino, e Kelman era venuto a saperlo tramite una lettera anonima che, scritta in inglese, diceva a child was born, per cui lui non aveva idea di quale fosse il sesso del nascituro. Dal 76 al 1995 le ricerche però di Kelman, del nipote o della nipote, furono svolte in maniera piuttosto difficoltosa, perché appunto lui non poteva rientrare in Argentina, dove era avvenuto il rapimento del figlio della nuora e della nipote. Aveva, essendo un poeta molto famoso, insomma, ha vinto il premio Cervantes, mi sembra nel 2000 proprio, aveva fatto, si erano uniti al suo appello diversi premi Nobel, e anche futuri premi Nobel, tra cui Dario Fo, poi anche Saramago. Insomma, ci fu una campagna internazionale che seguì a sostegno della ricerca di Juan Kelman. Questa ricerca si conclude nel 2000, quindi 24 anni dopo la scomparsa, quando, attraverso l'analisi del DNA di una giovane, eseguita tramite appunto un'iniziativa delle abuelas di Plaza de Mayo, si scopre che questa ragazza era figlia dei due giovani scomparsi nel 76. I resti dei due giovani, appunto del figlio di Herman e della nuora, furono poi trovati, quindi loro non sono desaparecidos, erano stati entrambi uccisi dopo essere stati torturati, giustiziati e poi sepolti in una fossa comune. Parto da qui perché in queste righe io penso di poter dire che c'è l'essenza del libro, cioè c'è tutta c'è la drammaticità della questione dei desaparecidos, perché appunto Macarena Kelman, perché poi si chiama così, per 24 anni è stata desaparecida. Il tema ed era uno dei figli rubati, uno dei 500 figli rubati che le abuelas cercano dal 1976, da marzo del 76, quando si è insediata la giunta civico-militare in Buenos Aires. Mi premeva raccontare la storia di Macarena nel libro perché è un ritrovamento. Il libro è un'inchiesta che segue un filo, che è quello di dare sostegno innanzitutto alla ricerca dei figli rubati, che continua ancora oggi da parte della Abuelas. Parentesi, ne hanno trovati fino ad ora 119, l'ultimo ritrovamento risale a diversi mesi fa ormai, mi sembra a novembre dello scorso anno, quindi ne mancano all'appello oltre 321. Quindi mi interessava fare un'inchiesta che appunto sostenesse la ricerca delle abuelas, perché le abuelas, questi figli rubati, li cercano non solo in Sud America ma anche in Europa, e in particolar modo in Italia, dove è davvero particolare la questione. Secondo i loro calcoli potrebbero vivere circa 50, 60, se non 70 di questi giovani, senza conoscere la propria storia, e quindi sarebbe, diciamo, percentuale circa il 20% di quelli che ancora mancano all'appello. La questione particolare è che in Europa ne sono già stati trovati 3 o 4, in Olanda una ragazza, ed è la storia con cui comincia il libro, di Ana Libertad, in Inghilterra e poi in un altro paese che in questo momento non ricordo. In Italia non è ancora stato trovato nessuno. E allora, e questa è una delle domande che troverete nel libro, che ho rivolto a diverse persone, è: come mai nel nostro paese ancora non, stranamente non sono stati trovati dei ragazzi rubati in quell'epoca. Mi ha colpito la risposta che mi ha dato il vice ambasciatore argentino a Roma, Carlos Cerniak, e lui ha detto chiaramente, pur essendo appunto un diplomatico, diciamo, ha messo da parte per un attimo la diplomazia, e ha raccontato che uno dei motivi per cui noi pensiamo che siano, che non, cioè uno dei motivi per cui non si riesce a trovare, è perché molto probabilmente le famiglie a cui sono state, alcune delle famiglie a cui sono stati affidati questi giovani, hanno potuto, ovviamente come gran parte degli argentini avevano origine italiana, e quindi dopo la fine della dittatura, essendo contigui, appunto erano famiglie che avevano sempre a che fare con, o con i militari o comunque con chi era molto vicino ai militari, e dopo la fine della dittatura sono fuggiti, sono fuggiti all'estero, molti in Italia utilizzando il doppio passaporto, e quindi questo è uno dei motivi per cui si pensa che siano qui con questi figli rubati. E però come sono arrivati in Italia? Cerniak mi dice che sono arrivati utilizzando gli stessi canali che 20 anni prima i circa 30.000 nazisti che fuggirono dall'Europa per non essere arrestati e portati davanti ai vari tribunali penali e così via, appunto hanno seguito a ritroso gli stessi canali. Canali che hanno permesso loro, come è successo per i nazisti in Sud America, di cancellare molto bene le tracce, e quindi si ipotizza, quindi cambiare nome, comunque modificarlo parzialmente, ovviamente utilizzando documenti falsi anche per il bimbo, che poteva avere al massimo 6 o 7 anni. E chi ha contribuito, cioè un contributo fondamentale a questa la possibilità di cancellare le tracce, appunto, dice Cerniak, ma questo lo si legge anche in altre parti del libro, è stata certamente la loggia massonica P2, che a metà anni 80 era decisamente ancora molto potente. E Cerniak, poi, chi avrà modo di leggere il libro, conclude dicendo: vedi dove sono seduto io in questo momento, questa nel 1976 era la scrivania di Licio Gelli. Licio Gelli era l'addetto economico all'ambasciata argentina a Roma, appunto, proprio nei giorni in cui la giunta si insediava. Uno dei primi, e fu uno dei primi a congratularsi con Massera, Agosti e Videla tramite una lettera che io pubblico parzialmente, dove oltre ai complimenti dà anche dei suggerimenti su come trattare, su come imporsi, su come diciamo, sì, trattare una reazione che certamente ci sarà da parte di una parte dell'opinione pubblica. E si rivolge in particolare a Massera, che era iscritto alla loggia. E Massera poi, pochi mesi dopo, sarà quello che è il generale, l'ammiraglio, che trasforma la scuola dell'armata, l'ESMA, in un centro di detenzione clandestina, da cui alla fine dei 7 anni di dittatura si calcola siano scomparsi, ma proprio scomparsi completamente, oltre 5.000 giovani. Quindi già qui c'è un legame forte con l'Italia. Il libro si intitola Figli rubati, l'Italia, la Chiesa e i desaparecidos. C'è un legame forte, un altro legame forte, salto alla seconda parte del libro, che è in un processo che si sta svolgendo a Roma, comunemente denominato processo Condor. Processo Condor perché si occupa di ricostruire la storia, e ovviamente il tentativo è anche quello di restituire giustizia ai familiari di 42 giovani scomparsi in quegli anni nell'ambito dell'operazione Condor. 42 giovani, di cui 22 di origine italiana e 20 invece sequestrati, tra parentesi torturati e poi uccisi, poi vi dirò perché tra parentesi, ne parleremo con Patrizia sicuramente, da un militare uruguaiano che quando è finita la dittatura in Uruguay, quindi dopo il 1988, comunque sicuramente tra il 1889 e la metà degli anni 90, ha preso la cittadinanza italiana e ha comprato un biglietto aereo per non fare la fine dei suoi commilitoni è fuggito in Italia, dove vive tranquillamente appunto da quasi 20 anni. Lui è uno degli imputati di questo processo ed è l'unico non contumace. Si è anche presentato a un'udienza, questo signore si chiama Jorge Nestor Troccoli. Ha chiesto anche la pensione in Italia e lui in Uruguay è soprannominato El Torturador, e questo nomignolo, a parte che è conosciuto, l'Uruguay è un paese che oggi conta non più di 3 milioni di abitanti, insomma molto piccolo, all'epoca non superavano i 2 milioni, diciamo più piccolo, insomma, a Roma ci sono più abitanti, insomma, El Torturador perché lui ha avuto anche il buon gusto, tra virgolette, di scrivere un'autobiografia pubblicata in Uruguay, dove raccontava tutto quello che ha fatto durante gli anni della dittatura. E come abbiamo sentito tante volte dire appunto agli ufficiali, sottufficiali, ai militari nazisti, qui, insomma, alle nostre latitudini, lui pure diceva: io obbedivo gli ordini, d'altronde era una guerra, l'unico modo per ottenere delle informazioni era quello di torturare. E alla tortura seguiva l'omicidio e poi anche la sparizione. Quindi nella seconda parte del libro, allora il processo è ancora in corso e questa è, appunto, ecco, io ringrazio sempre l'Asino d'Oro per avermi fatto uscire un attimino dalle regole così editoriali, perché io racconto un processo in corso d'opera. Non c'è il finale, come se fosse un giallo senza finale, però appunto io mentre scrivevo mi sono reso conto che di questo processo, io non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, ma insomma di questo processo sui giornali non si sentiva niente. E si tratta di un processo per crimini di lesa umanità, nei confronti non di una persona, che insomma comunque già sarebbe una cosa grave, ma di 42 persone. Sì, vabbè, ma sono storie accadute 40 anni fa, però si tratta di crimini di lesa umanità, quindi non è un processo per furto o per borseggio, stiamo parlando di crimini atroci, nei quali purtroppo, ecco, le imputazioni sono solamente di sequestro e omicidio, perché, e poi qui tra poco passerò subito il microfono a Patrizia, perché il reato di tortura in Italia non è previsto e quindi non rientra nelle imputazioni a carico di questi imputati, che oggi sono 31, quando è iniziato il processo a febbraio del 2015 erano 33, due sono morti perché sono molto anziani, insomma appunto stiamo parlando di fatti di circa 40 anni fa. All'inizio proprio dell'istruttoria il magistrato indagava su 143 persone, tra cui Videla, Pinochet, Contreras, che appunto è morto lo scorso anno. In pratica il GOTA, le gerarchie di militari e poliziesche e istituzionali dei 7 paesi che erano quelli firmatari appunto del piano Condor. E sto parlando del Brasile, dell'Uruguay, del Paraguay, del Cile, della Bolivia, del Perù, e me ne dimentico sempre uno, e dell'Argentina. Ecco. In breve, il piano Condor funzionava in questo modo: per 3 o 4 anni è rimasto segreto, poi nel 1975 è diventato diciamo un atto pubblico. Ed era un accordo tra polizie che permetteva, per esempio, alla polizia uruguaiana di inseguire in Argentina dei ricercati, ma stiamo parlando di ricercati nel senso appunto oppositori del regime, all'epoca c'era il dittatore, si chiamava Bordaberry. Allo stesso modo permettevano alla polizia argentina di intervenire in Paraguay o a quella cilena di entrare in Argentina e di agire in coordinamento appunto con le forze locali. Poi che succedeva? Che una volta individuato l'obiettivo, avveniva il sequestro, le persone, come è accaduto ai figli, al figlio di Herman, venivano tradotte in centri di detenzione clandestina. Le operazioni partivano sempre la sera o comunque la mattina presto, come facile intuire, perché avvenivano in quasi totale segretezza. E queste persone da quel momento in poi sarebbero scomparse. Il termine desaparecidos è un'invenzione di Videla. Lui disse: non ci sono né vivi né morti, ci sono solo desaparecidos. Mi sembra alla BBC nel 1978, durante un'intervista. E la trafila per i sopravvissuti era, per i familiari era praticamente sempre la stessa: quando dopo due o tre giorni non si hanno più notizie appunto dei congiunti, la prima tappa era il commissariato di zona, la seconda dove nessuno gli rispondeva, la seconda negli ospedali dove nessuno gli rispondeva, la terza in chiesa dove nessuno gli rispondeva, dopodiché la quarta era in tribunale, dove veniva depositato regolarmente l'habeas corpus, cioè la denuncia di scomparsa della persona. E per 30.000 in Argentina, poi ce ne sono altri circa 7-8.000 sparsi negli altri sei paesi, ancora oggi si parla di desaparizione, cioè quei corpi non sono mai stati più ritrovati. Adesso ecco, a proposito di desaparición, ma anche di tortura, io vorrei passare il microfono a Patrizia, perché di desaparición se ne parla ancora oggi. Io, se non ricordo male, ecco, ho partecipato a un incontro all'Ecco con Monica Mazzoleni, e lei raccontava che in Messico negli ultimi anni si contano circa 27.000 desaparecidos. Facendo la rincorsa all'Argentina. Ecco, questo. E poi ancora più ci riguarda ancora più da vicino il caso Giulio Regeni, appunto, ecco, la libreria Feltrinelli e Massimo hanno aderito con entusiasmo alla campagna che Amnesty International sta facendo per il sostegno ovviamente ai familiari di Giulio, per comunque anche per tenere viva l'attenzione sul caso, che è tutt'altro che in via di soluzione. Giulio Regeni poteva essere un desaparecido, ma è stato un desaparecido, ma soprattutto c'è anche di mezzo la questione della tortura. E questo, ecco, io una domanda che ti farei è questa: nel caso in cui dovessero essere individuati i presunti responsabili, rischiano un'incriminazione per tortura da parte dello Stato italiano? E da qui partire. Lo hai appena detto, in Italia non esiste ancora il reato di tortura, quindi se si individuassero i responsabili di tutto quello che è stato fatto a Giulio Regeni, potrebbero venire incriminati per omicidio ma non per tortura. Quindi se ci fosse un responsabile di omicidio potrebbe venire incriminato, ma se insieme a lui ci fossero state altre persone che hanno partecipato semplicemente, diciamo tra virgolette, alla tortura, questi non verrebbero incriminati. Io vorrei prima di tutto unirmi a quello che ha detto Federico nel ringraziare la libreria Feltrinelli per aver aderito a questa nostra campagna di Amnesty per verità per Giulio Regeni. Devo dire che c'è una grandissima adesione in genere in tutta Italia, una grande quantità di questi cartelli gialli e striscioni gialli sono stati esposti da municipi, da semplici cittadini in negozi. Il giallo è il colore di Amnesty. La scorsa domenica abbiamo fatto un grande flash mob a Milano perché c'era la nostra assemblea nazionale, e nell'ambito di questa assemblea nazionale abbiamo voluto fare questo flash mob per testimoniare ancora una volta la nostra presenza, la nostra attenzione sul caso di Giulio Regeni, e ci hanno fatto la bellissima sorpresa di partecipare a questo flash mob i genitori di Giulio Regeni, che sono delle persone meravigliose, credo che tutti quanti voi li abbiate ascoltati qualche volta nelle loro dichiarazioni. Sono persone di una pacatezza e di una serenità nell'affrontare questo loro dolore, che è qualcosa di veramente esemplare. E la mamma di Giulio ha detto una cosa bellissima, ha detto: con tutte queste adesioni, con tutti questi striscioni, io ogni volta che vedo il giallo adesso penso a Giulio, e penso che tutti quanti pensino a Giulio. Il giallo di Amnesty è diventato il sinonimo di Giulio. Io spero che sia davvero così per tutti quanti, e tutti quanti abbiamo ben presente il fatto che noi dobbiamo lottare per la verità per Giulio, ma perché questo vuol dire verità per tutti quanti quelli che soffrono per vedere i loro diritti negati. Un loro qualsiasi diritto umano che viene negato è il diritto di tutti quanti, e dobbiamo portare avanti questa battaglia, come ha detto la mamma di Giulio. Giulio è stato un desaparecido. Per un mese i suoi genitori hanno vissuto il dramma che in America Latina hanno vissuto migliaia, decine di migliaia di parenti, il dramma di chi va a chiedere informazioni e non ha una risposta, di chi chiede aiuto e non ottiene nessuna risposta. E alla fine si è trovato questo corpo e la risposta è arrivata, ed era questa terribile risposta di una morte per tortura. Il governo egiziano ha tentato di negare, sono state dette cose assolutamente addirittura infamanti per Giulio stesso, ma non possono assolutamente negare, perché il suo corpo parla, i segni che ci sono sul suo corpo dimostrano che c'è stata davvero tortura, e come dicevamo prima vengono accuse da un paese nel quale la tortura non è un reato, e quindi per questo dobbiamo portare avanti questa battaglia assolutamente. La desaparición non è un fenomeno legato all'America Latina, non è un fenomeno legato a quegli anni della dittatura, non è un fenomeno legato soltanto a Giulio Regeni, purtroppo, perché Amnesty ha pubblicato qualche tempo fa un rapporto sull'Egitto, sullo stato dei diritti umani, della situazione dei diritti umani, questo prima che ci fosse il caso di Giulio Regeni, nel quale si denunciavano decine di sparizioni di cittadini egiziani. Quindi spariscono cittadini egiziani, spariscono cittadini non egiziani in Egitto. La desaparizione c'è in tante parti del mondo ancora. In Messico, come dicevamo prima, ce n'è una quantità incredibile. Siamo arrivati a 27.000, tra un poco raggiungeremo appunto i 30.000 desaparecidos dell'Argentina nel periodo della dittatura. Addirittura sono stati capaci in Messico di far sparire 43 ragazzi contemporaneamente. Se ci si pensa, è qualcosa che trascende addirittura la nostra immaginazione, come si possano far scomparire 43 persone nel nulla. Chiaramente è qualche cosa che ha bisogno di una grande struttura alle spalle. Non si può improvvisare la scomparsa di 43 persone. Ci deve essere alle spalle una grande rete di complicità, una grande partecipazione da parte di tanti e tanti livelli del potere. Per questo la desaparición continua in tutto il mondo, ma continua anche in una nuovissima forma, perché le persone che scompaiono nel mare non li vogliamo chiamare desaparecidos, è una nuova forma di scomparsa, persone che partono cercando una nuova vita, cercando un paese dove poter vivere liberi, dove poter far crescere i propri figli, e scompaiono in mare senza che di loro rimanga nessunissima traccia, non si sa il nome, non si sa la provenienza, non si sa il numero delle persone scomparse, sono tantissime e sono loro i nuovi desaparecidos. Per questo bisogna portare avanti questa battaglia. Giulio Regeni è stato anche lui un figlio rubato ai suoi genitori, ed è per questo che questa mi sembra la sede più adatta per parlare di lui. Però a questo punto dobbiamo parlare anche del libro di Federico, non possiamo assolutamente glissare. Anzi, ne vorrei parlare io, perché io l'ho letto, non sono una di quelle persone che va a presentare un libro avendo letto soltanto il risguardo di copertina. L'ho letto tutto quanto e l'ho trovato un libro estremamente denso di informazioni, ricco di storie, per cui consiglio a tutti quanti di leggerlo, perché è un libro che è un saggio, ma che si legge con quasi come se fosse un romanzo. Tante sono le storie che ci sono raccontate. C'è tutta quanta la storia dell'Argentina, dalla dittatura fino a oggi, degli altri paesi appunto che rientrano in quello che viene definito il Cono Sur e che sono interessati da questo fenomeno del piano Condor e coinvolti adesso nel processo Condor. Ci sono tutte le storie dei bambini ritrovati, per cui un'infinità di informazioni, un'infinità di emozioni leggendolo. Io mi occupo di America Latina e di Argentina da moltissimi anni nell'ambito di Amnesty e ho letto un'infinità di saggi sull'argomento, chiaramente per mia informazione e formazione. Devo dire che il libro di Federico si stacca da tutti quanti gli altri per alcune caratteristiche, in positivo, assolutamente, perché è un libro in cui si sente è un saggio in cui però si sente una grandissima partecipazione emotiva. Non si può dire che non sia un libro di parte, ma questa è una cosa buona, essere di parte in questo caso, essere così coinvolti emotivamente e trasmetterlo, perché chiunque lo legge sentirà e parteciperà di questa emozione. Probabilmente questa emozione c'è perché Federico, come me, ha avuto la fortuna di conoscere tanti dei protagonisti di queste vicende, non i protagonisti in prima persona, cioè i desaparecidos, perché purtroppo appunto loro rimangono desaparecidos, ma i parenti, ma alcuni dei ragazzi ritrovati, di cui per esempio come nel caso di Macarena lui ha già parlato. E conoscendo queste persone non si può non sentire la passione, non sentire l'entusiasmo che tante di queste persone sono riuscite a trovare per trasformare qualche cosa di assolutamente negativo in qualche cosa di positivo. Mi viene in mente per esempio Estela Carlotto, la grandissima Estela Carlotto, che è la presidente delle Abuelas, delle nonne di Piazza di Maggio, che dalla tragedia della scomparsa di questa figlia è riuscita a tirar fuori una grandissima forza, a diventare una forza motrice per tutte quante le altre nonne che con lei hanno lottato in questi anni e hanno portato avanti la ricerca di questi nipoti, e che dopo tanti anni è stata premiata, direi, con il ritrovamento, quando io sinceramente non ci speravo più. Lei ci sperava sempre, naturalmente, ma io pensavo, quando l'ultima volta l'ho incontrata qualche mese prima che fosse ritrovato suo nipote, perché a Roma gli era stata assegnata la cittadinanza onoraria, e c'è stato un incontro alla Fondazione Basso sempre, e lì tutti quanti più o meno ci siamo avvicinati a lei, gli abbiamo fatto gli auguri, per le congratulazioni per questa cittadinanza che gli era stata assegnata. E io le ho detto: mi auguro di poterci rincontrare prossimamente, magari l'anno prossimo, con finalmente il tuo nipote ritrovato. Ma l'ho detto non credendoci moltissimo, come un augurio che si fa ad una persona cara, però con una speranza relativa. Quando poi, a distanza di pochi mesi, ho saputo che questo si era realizzato, mi è sembrato veramente qualcosa di meraviglioso, ed essendo io così felice, ho immaginato quanto potesse essere felice lei e quanto potesse essere stata premiata per questo suo lavoro indefesso nel ritrovare questo suo nipote. E questa è soltanto una delle tante storie che ritroverete anche nel libro di Federico, naturalmente. E un altro dei motivi per cui il libro di Federico mi sembra che si distacchi dagli altri che ho letto, è per questa sua assolutamente non velata critica per tutto quello che riguarda il ruolo della Chiesa e delle istituzioni religiose nell'ambito della dittatura militare argentina, non soltanto in quella. Una critica assolutamente non velata. Io mi sono addirittura appuntata alcuni dei punti che tu riporti e delle persone di cui parli. Sono tutte quante persone appartenenti al clero di livello medio-alto, se non altissimo, perché c'è anche una velata, non tanto, critica a chi è veramente intoccabile, cioè al nostro, per la maggioranza delle persone, al nostro caro Papa Bergoglio, il quale non è stato del tutto disponibile e accogliente nei confronti delle persone che andavano a raccontare i loro problemi con le scomparse di parenti. Diciamo che ha scaricato ad altre persone per essere buoni. Poi tralasciamo tutto quello che è la polemica su altre situazioni che hanno coinvolto il nostro Bergoglio durante il periodo della dittatura, ma oltre a lui sono citati Monsignor Picchi, Monsignor Grazzelli, l'Arcivescovo Plaza, senza parlare poi di alcuni sacerdoti che hanno avuto un ruolo estremamente attivo addirittura nell'ambito delle prigioni segrete e della tortura. Per cui c'è una critica che io personalmente, e qui parlo come Patrizia e non come Amnesty, perché non posso essere la voce di tutta quanta la mia associazione, però io personalmente condivido e che mi è piaciuto ritrovare nel tuo libro. A questo punto io ti farei una domanda, visto che tu hai detto che tu volevi fare delle domande a noi, però se permetti te la voglio fare io. Come tu sai, ci sono stati diversi incontri tra le Abuelas e il Papa, almeno un paio, no? E durante questi incontri il nostro Papa Francesco ha ben due volte dato la sua massima disponibilità nel offrire tutto quanto il suo aiuto, facendo conoscere documenti che fino a questo punto sono stati segretati. Per intenderci, per esempio, tutto quanto il discorso delle adozioni illegali dei bambini nati nelle carceri è un discorso che coinvolge molto da vicino le istituzioni religiose, perché nella maggior parte dei casi erano delle associazioni religiose che facevano da tramite tra il luogo in cui nascevano, cioè le prigioni illegali, questi bambini e le famiglie alle quali venivano dati in adozione. Per cui se fosse possibile mettere veramente il naso nei documenti di queste benedette associazioni, una di queste mi pare, se non sbaglio, si chiama Famiglia Cristiana, come la nostra celebre rivista, sarebbe probabilmente possibile, non dico ritrovare tutti quanti quei 300, quanto abbiamo detto che sono 320, 321 bambini che mancano ancora all'appello, però una ottima fetta di questi si potrebbero rintracciare finalmente. Papa Francesco ha detto che lo farà, che darà queste. Quello che voglio dire a chiedere a Federico è se secondo lui stiamo ancora parlando di buone intenzioni o si realizzerà veramente secondo te questa disponibilità e questa offerta di collaborazione. Allora, no, grazie, grazie della domanda, ma anche delle belle parole, davvero. Dunque, secondo me, da quello che mi viene raccontato, dopo la promessa fatta ad Estela Carlotto, effettivamente Bergoglio ha suggerito alla Conferenza Episcopale Argentina di mettere a disposizione gli archivi della Chiesa, appunto, di quel periodo. Negli archivi ci sono le storie di tutti i desaparecidos, questo anche se cioè, questo si può dire tranquillamente, perché appunto qualunque all'interno di tutti i centri di detenzione clandestina c'erano i cappellani militari. I cappellani militari erano la prima fonte di informazione, cioè il primo anello della catena di informazione che passava appunto dal cappellano al vescovo della cittadina e fino ai vescovi di Buenos Aires, dopodiché c'era anche il nunzio Pio Laghi che in qualche modo informava Roma, ecco, l'ho detta in maniera molto sintetica, ma più o meno questa era la cosa. E dai cappellani militari, i cappellani militari erano quei personaggi che davano conforto ai torturatori dopo una sessione di tortura, perché ovviamente è stressante e anche faticosa, e l'estrema unzione ai torturati. Nel libro c'è la storia di, molto veloce ma vale per tutte, di Christian Federico von Fernick, che era il cappellano militare della zona appunto di La Plata, se non mi ricordo male, e lui è stato condannato, l'unico sacerdote argentino condannato, l'unico, è stato condannato all'ergastolo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di 8 persone. Tra questi, tra le sue vittime c'è anche il padre di Ana Libertad, che è la ragazza ritrovata in Olanda, con cui apro il libro. Dicevo, negli archivi c'è tutto, negli archivi c'è la storia di chi è scomparso e la storia di chi è rubato. Di chi è rubato c'è appunto dei figli di chi è stato rubato, venivano, c'è questo da dire, venivano tolti appunto a giovani che comunque erano nella maggior parte dei casi di sinistra, quindi oppositori dei vari regimi, e venivano assegnati a famiglie contigue al regime, che dovevano essere di provata fede cattolica e cultura occidentale. Per cultura occidentale si intendeva adesione totale all'idea neoliberista di economia, poi da qui e qui tra poco passeremo la palla anche appunto ad Andrea. E, ovviamente venivano battezzati, dal prete di famiglia, che fino al giorno prima aveva visto la madre di questo nuovo figlio che non aveva diciamo, evidenze di gravidanza, e quindi ci voleva davvero poco per appunto per questi sacerdoti capire quale fosse la provenienza dei nuovi arrivati, cioè di questi figli. Nessuno di loro ha mai, almeno in pubblico, nessun sacerdote, ma poi a qualunque livello gerarchico, ha mai denunciato pubblicamente un furto. Il ritrovamento dei bambini è avvenuto sempre, molto spesso, tramite segnalazioni anonime, quindi mai per canali ufficiali. Il nostro, io lo dico sarcastico come lo dice... dice Patrizia velatamente, il nostro Bergoglio è stato, dopo la fine della dittatura, lui durante gli anni della dittatura era il capo dei gesuiti argentini, cade la dittatura e si trasferisce in Europa, in Germania, e per un po' di anni cade, diciamo così, tra virgolette, in disgrazia. Poi riesce a rientrare in Argentina, rientra in Argentina nel periodo di Menem, che è il presidente argentino che ha azzerato diciamo, tutte le leggi che Alfonsin aveva invece varato per iniziare a perseguire i responsabili della dittatura. E dopo un po' Bergoglio diventa il capo dei vescovi argentini. Per tutto il periodo, prima vescovo di Buenos Aires, poi capo dei vescovi argentini, per tutto questo periodo, cioè fino a quando non è diventato papa, lui non ha mai speso una parola, se no quando è stato costretto, per i desaparecidos e per i figli rubati. Anzi, la nonna di Ana la prozia, quindi la sorella della nonna di Ana Libertad, Estelita della Quadra, la sorella di Alicia della Quadra, che è la prima presidente delle nonne di Plaza De Mayo, lo ha inseguito per quasi 20 anni per portarlo davanti a un tribunale a testimoniare, a raccontare quello che lui sapeva. Perché? Perché Bergoglio è stata la persona a cui si sono rivolti i nonni di Ana Libertad, appunto come seguendo la trafila che dicevo prima, per chiedere notizie della figlia e della nipote che sapevano che era nata 3 mesi prima. Bergoglio, appunto, con atteggiamento molto sbrigativo, li indirizza da un'altra persona e la cosa finisce lì. Nel 2010 o nel 2011 finalmente concede la propria testimonianza per iscritto a un tribunale che si occupava proprio di ricostruire la storia del piano sistematico di appropriazione dei bambini, e lui dice, racconta testuale, c'è scritto, che è venuto a sapere della pratica del furto dei bambini solo dopo la fine della dittatura. Ora, Ana Libertad è scomparsa a ottobre del 1977, è scomparsa, è nata a luglio del 1977 e il nonno ha parlato con Bergoglio a ottobre. Bergoglio però racconta che di queste storie ne è venuto a sapere solamente 6 anni dopo. I giudici gli hanno creduto, ovviamente i familiari di Ana Libertad no. Il nonno, quello che andò a parlare con Bergoglio, era morto, quindi non ha potuto controtestimoniare. Insomma, rimane questa macchia che per me è molto più densa rispetto alla storia dei due sacerdoti scomparsi, dove lui probabilmente ha una responsabilità morale, diciamo così, è stato un po' incauto con certe dichiarazioni pubbliche, ma non c'era una responsabilità diretta, secondo me, secondo quello che scrivo, poi lo scrivo anche nel libro. Nella storia di Ana Libertad invece c'è un atteggiamento addirittura anche sprezzante di questo signore, ed è quello che dice fa il vago rispetto a questa storia, è lo stesso che poi quando Estela trova Guido, il nipote, si chiama Ignacio Montoya, il nome poi acquisito, e lo trova ad agosto del 2014, una settimana prima di Ana Libertad, appunto Baba Bergoglio si affretta a invitare Estela Carlotto con tutta la famiglia in Vaticano, parere mio, grande operazione di propaganda, e lì in quella situazione promette ad Estela di aprire gli archivi. Quindi la persona che fino a un anno prima non sapeva nemmeno dell'esistenza di questa pratica, un anno dopo la stessa persona decide, promette l'apertura degli archivi, e si muove e effettivamente qualcosa accade in questo modo, cioè caso per caso i familiari o i giudici, nel caso in cui ci fosse un processo in corso oppure ci fosse una denuncia di sparizione, come c'è, caso per caso la singola persona può andare a chiedere di dare un'occhiata per sapere, questo soprattutto nel caso dei desaparecidos, ma comunque per sapere se effettivamente quel nipote è nata, se quella nipote è sopravvissuta al lager in cui è nata. Non c'è scritto a chi è stato assegnato. E qui invece, secondo me, appunto, dovrebbero entrare in gioco i sacerdoti che hanno battezzato quei bambini. Insomma, e il caso per caso, conoscendo i tempi della Chiesa, significa che 30.000 desaparecidos, diciamo così, tra circa 15.000 anni più o meno potremmo arrivare a conoscenza. E è una cosa che impedisce la visione complessiva del fenomeno, che è fondamentale anche per chi indaga. E questo penso di poterlo dire vedendo le difficoltà che sta affrontando il magistrato nel processo e che ha affrontato nell'istruttoria. Non sono storie scollegate tra di loro, generalmente c'è sempre qualcuno che muove le fila, c'è un medico che firma 100 certificati falsi di morte del neonato e di nascita dello stesso neonato, che poi deve essere assegnato a una famiglia per l'adozione illegale. E quindi bene che abbia promesso, bene che alcuni familiari di Desaparecidos, ma io parlavo proprio ieri con alcuni di loro, ieri sera, credo che appunto dall'ottobre 2014 a oggi siano stati nell'ordine di una quindicina i familiari. Per quanto riguarda invece i magistrati, questo non lo so, però comunque va molto a rilento questa cosa, certamente. E l'ho accennato, quindi adesso vorrei fare una domanda ad Andrea Ventura per introdurre il suo intervento. Allora, le teorie di Milton Friedman gli sono valse il Nobel. Al Cile hanno dato il generale Pinochet. Questo lo scriveva Edoardo Galeano in Giorni e notti d'amore e di guerra. Il giornalista uruguaiano è morto lo scorso anno, ad aprile proprio, praticamente un anno fa, nel 2015. E io lo scrivo anche nei ringraziamenti, cioè le vene aperte dell'America Latina praticamente è il motivo per cui io sono diventato giornalista a 40 anni. L'ho letto con colpevole ritardo. E qualche, insomma, è scattata qualcosa e mi sono ritrovato a fare giornalista appunto 10 anni fa. Lo scriveva dall'esilio, perché appunto Le vene aperte dell'America Latina esce a fine anni 60 e anticipa, oltre a fare una ricostruzione storica di tutto quello che ha dovuto passare il continente latinoamericano, soprattutto nell'ultimo secolo, insomma dalla metà dell'Ottocento fino alla fine degli anni 60, comunque anticipa quello che di lì a poco accadrà, cioè a partire dal suicidio, quindi dal golpe di Pinochet in poi, quindi dal 73 in poi, cascheranno tutte le, appunto, le giovani democrazie che resistevano in qualche modo alla fine del quel colonialismo politico-culturale che era durato anche 5 secoli in alcuni casi. E quindi lui è in esilio, è il 1983 ed è l'anno in cui cade la dittatura, in cui si insedia la dittatura argentina. Ma ne dovranno, l'anno in cui cade la dittatura argentina, l'83, ne dovranno passare altri 5 o 6, perché in Cile, Uruguay e Paraguay, altri paesi coinvolti nell'operazione Condor, accada lo stesso. Allora, sul Left, che uscirà domani in edicola, Simona Maggiorelli ha intervistato Salvatore Settis. L'archeologo sarà la prossima settimana a Torino con Zagrebeschi, costituzionalista, e insieme parleranno di Costituzione, perché attuarla è meglio che cambiarla. Oggetto del dibattito ovviamente è la proposta di riforma costituzionale di Renzi e Boschi, che sarà sottoposta al referendum appunto tra alcuni mesi. Scrive Simona, giuristi come Zagrebeschi dicono che in questa proposta di cambiamento della carta i diritti della persona diventano meno importanti delle leggi di mercato, e chiede a Settis qual è il pensiero sotteso alla riforma di Renzi. E lui risponde: il pensiero sotteso è seguire l'ordine di scuderia che viene da lontano. Molti citano il documento della società finanziaria JP Morgan perché le sue parole somigliano molto appunto a questo documento programmatico firmato dal governo Letta. In realtà non c'è nemmeno, non si deve nemmeno a JP Morgan la primogenitura. Tutto questo viene da Margaret Thatcher e da Ronald Reagan. Non c'è alternativa, amava dire la signora Thatcher, prosegue Settis appunto. Per lei esisteva un solo modello di economia, quello neoliberale spinto. Un modello che impone che i diritti della persona vadano adeguati, cioè ristretti, perché altrimenti l'economia si ferma. Allora, leggendo questa, ho dato un'anteprima, queste parole, quindi il pensiero, è tornato appunto alla memoria, il pensiero della Thatcher e di Reagan, che appunto tra il 76 e il 77 era il capo della CIA, Ronald Reagan. Questo pensiero della Thatcher era stato anche il pensiero che armò la mano di chi realizzò il piano Condor. il piano ordito da Kissinger tramite la CIA, appunto, e da Pinochet per esportare lo stile di vita statunitense in Sud America, applicando il modello economico ideato da Milton Friedman, quello di cui parlava prima Galeano. Ecco, la domanda è se c'è un nesso, se ci sono delle analogie tra la crisi di democrazia attuale e l'annullamento delle democrazie latinoamericane realizzato negli anni 70 in nome di quel modello. Bella domanda, perché si corre il rischio di fare delle semplificazioni in due contesti storici molto diversi. Però al contempo è indubbio che c'è un modello di politica economica che è la politica economica del modello neoliberista, che è un denominatore comune dal Cile di Pinochet alla situazione odierna. Io anzitutto ti devo ringraziare, perché il fatto che mi hai invitato a fare questa presentazione è stato uno stimolo per rivedere tutta una serie di questioni che nel mio percorso di ricerca avevo visto un po' all'atere, o forse non avevo avuto il coraggio di andarla a vedere fino in fondo. E niente, la mia risposta può essere semplicemente data ricordando un personaggio che era il ministro degli esteri di Allende, Letelier, Orlando Letelier, il quale praticamente dopo il colpo di Stato venne imprigionato da Pinochet, poi venne liberato e andò a Washington. E lui nell'agosto del 1976 scrisse un saggio su una rivista, The Nation, dove dice che il motivo fondamentale del colpo di Stato di Pinochet va cercato nel modello di politica economica che doveva essere imposto. E la stessa cosa la dice Walsh, se l'ho pronunciato, Rolto Walsh, il quale dice che al di là dei crimini commessi dalla dittatura argentina, per vedere le ragioni di fondo di tutto quello che è successo, bisogna andare a vedere il modello di politica economica che doveva essere imposto. La cosa terribile è che tutti e due furono assassinati, perché Letelier venne ucciso a Washington da una bomba messa sotto la sua auto, proprio poche settimane dopo aver scritto questo bell'articolo che io ho ritrovato, e Walsh anche venne ucciso in uno scontro a fuoco. Lui era un giornalista investigativo molto noto, tu l'hai messo proprio nell'epigrafe della Locandina di oggi. E se si va a rileggere quello che scrive Letelier, praticamente lui analizza le politiche poste in atto dal regime di Pinochet e possono essere, come dice, in sintesi quello che è stato fatto in Europa: privatizzazioni e liberalizzazioni. Cioè il governo di Allende aveva nazionalizzato, aveva migliorato le condizioni di vita delle classi più povere, e Pinochet privatizza tutte le imprese che il governo precedente aveva nazionalizzato. C'è negli anni di Pinochet un'enorme redistribuzione della ricchezza dalle classi più povere alle classi più ricche. Questo lo dice Letelier, dice che i redditi da lavoro dipendente si sono ridotti da circa il 60%, più del 60%, a meno del 40%. Il potere dei sindacati ovviamente è completamente indebolito, è stato cancellato, e l'economia cilena è in preda alla speculazione finanziaria, cioè c'è il caos finanziario, lo chiamo. Sono tutti elementi che, diciamo, che a distanza di tempo ritroviamo anche in quello che è successo in Europa a seguito del modello neoliberista che si è esposto nella Costituzione europea. Se vogliamo fare un po' di storia, dobbiamo pensare che prima degli anni 70, prima dei colpi di Stato che hanno investito l'America Latina fra la fine degli anni 60 con la sospensione della democrazia in Brasile, poi l'Argentina, il Cile e tutte le altre dittature, praticamente l'America Latina aveva un tenore di vita, le popolazioni dell'America Latina avevano un tenore di vita che era assolutamente paragonabile a quello della popolazione europea. La povertà era molto ridotta, l'istruzione per tutti, ed era un modello di successo economico. C'era proprio un filone di pensiero che era l'economia dello sviluppo, che guardava al modello dell'America Latina per tutti i paesi del mondo, i paesi poveri, perché consentiva a questi paesi di riuscire a sviluppare le loro economie in modo tale da migliorare le condizioni della popolazione. C'era un altissimo tasso di alfabetizzazione, una classe media molto ricca. E tutto questo praticamente nel giro di pochi anni, con l'imposizione del modello di Milton Friedman e quindi con questi colpi di Stato, viene cancellato. E il legame con Friedman, che tu ricordavi prima, è nettissimo, perché praticamente c'è una storia abbastanza nota, che sono questi studenti dell'America Latina che praticamente andavano a studiare a Chicago l'economia di Milton Friedman. Quindi questi studenti si formavano nelle università americane, e c'erano degli stanziamenti molto forti di queste fondazioni, in particolare la fondazione Ford stanziò un sacco di soldi per far studiare questi studenti. Però questi studenti, almeno fino a tutti gli anni 60, si erano formati sulla base dei modelli di Milton Friedman, ma non avevano nessun tipo di impatto, perché praticamente non si rifilava nessuno, l'economia andava sulla base di un pensiero che era il pensiero dominante, che era quello keynesiano, e quindi erano considerati una setta di persone abbastanza marginali. Entrarono alla ribalta esattamente con i colpi di Stato, le giunte militari utilizzarono proprio questo pensiero di Friedman per imporre il loro modello di politica economica, e quindi abbiamo praticamente un legame molto molto stretto fra la politica economica di questi regimi e la violazione dei diritti umani. Ma perché è necessario la violazione dei diritti umani? È necessario la violazione dei diritti umani perché il modello di economia che Friedman impone è un modello di economia dove non esistono i corpi intermedi. Per funzionare questo sistema economico deve avere non dei gruppi sociali, cioè i sindacati, i partiti, le politiche economiche dello Stato, eccetera, ma c'è un'idea di mercato basata sull'azione individuale. Noi dobbiamo essere tutti quanti individui singoli, e dobbiamo stare in rapporto di mercato. Questa idea, come se il mercato fosse un qualche cosa, un luogo di natura, un fatto naturale che si è corrotto con le politiche keynesiane, con lo sviluppo della democrazia e con lo sviluppo dello Stato sociale. Quindi questa corruzione di questa idea originaria del mercato, secondo Milton Friedman, è la fonte dei problemi economici. Non solo la fonte dei problemi economici, ma lui, insieme ad Hayek, dicono che la democrazia, il sindacato, il modello di Stato sociale non sono altro che un percorso che inesorabilmente porterà verso il socialismo. Perché il potere della gente, il potere della democrazia, eccetera, distruggono le conquiste della nostra società aperta. E quindi bisogna ricostruire l'economia nella sua verità vera, che però questa verità vera non è una verità vera storica, che uno dice, sai, ci sta nell'Ottocento, funziona, è una verità ideologica, che non c'è mai stato un periodo storico in cui questo modello funzionava. E quindi questo modo di pensare è talmente assurdo, talmente fuori dal mondo, che ogni volta che c'è qualche problema, per cui ci sta una crisi economica, il mondo finanziario come è successo adesso non funziona, tra le crisi eccetera, loro non dicono che hanno sbagliato il modello, dicono che quel modello non è stato applicato in modo abbastanza radicale, perché è chiaro che quest'idea che le persone sono degli atomi individuali, che ciascuno si muove eccetera, è un'idea assolutamente fuori dal mondo. Cioè tutti noi siamo esseri sociali, non siamo atomi isolati nel mercato. E sempre per tornare alle Letelier, Letelier riporta in questo articolo un'affermazione molto particolare di Friedman, il quale era stato criticato per il fatto di essersi, come dire, consegnato, avere suggerito, perché Friedman poi personalmente volò a Santiago a offrire i suoi consigli a Pinochet, e venne criticato per questo. E Friedman risponde dicendo, ma io do solo dei consigli tecnici. È come se un dottore venisse criticato perché va a lavorare in ospedale cileno. Io in fondo sono soltanto andato da Pinochet a dire quello che deve fare per far funzionare un sistema economico, e se qui c'è una dittatura oppure c'è una democrazia oppure c'è qualche altra cosa, quello che va fatto è sempre lo stesso. E la cosa impressionante è che nella loro semplicità le ricette di politica economica del Cile di Pinochet le ritroviamo nell'Europa odierna, perché è sempre la stessa cosa. La ricetta è privatizzazione, La ricetta è: i salari sono troppo alti e bisogna ridurre, bisogna introdurre la flessibilità nei salari. La ricetta è: i sindacati contano troppo, lo Stato occupa troppo spazio nell'economia. È uguale, sempre, è una filastrocca che viene ripetuta all'infinito. Per imporre questo modello di politica economica nel Cile di Pinochet c'è voluta la dittatura, da noi c'è stato un percorso molto molto più complicato, perché è stata fatta questa finanziarizzazione dell'economia, la globalizzazione dei mercati, che con questa globalizzazione praticamente il potere dello Stato si è ridotto moltissimo, e quindi abbiamo ad esempio il caso della Grecia, no? Cioè la Grecia è un paese che si è opposto a questo modello di politica economica, e a questo punto non c'è neanche bisogno di fare un colpo di Stato, basta che la Banca Centrale Europea decide che le banche greche non vengono più finanziate, che la Grecia l'economia greca va completamente in bancarotta, non è necessario. E quello che disse, non lo dico io, dissero molti economisti, e lo disse Galbraith, no? Il figlio del famoso economista, disse: ma dice quello che ha fatto la Banca Centrale Europea nei confronti della Grecia è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché ha fatto un colpo di Stato. Cioè, quando mai una banca centrale agisce contro un governo? Le banche centrali nella storia sono sempre stati strumenti dei governi per sostenere le politiche economiche dello Stato. Noi abbiamo una Costituzione europea con cui una banca centrale, che dovrebbe essere la banca centrale di tutti i paesi europei, agisce contro un governo democraticamente eletto, perché quel governo non vuole imporre il modello di politica economica. Questo discorso andrebbe, diciamo, approfondito anche, ma a me piace anche aggiungere un'altra cosa al discorso che è stato fatto prima, che in qualche modo voglio fare un apprezzamento al libro. Perché faccio un apprezzamento al libro, diciamo, alla struttura del libro? Perché questa cosa che io vi sto raccontando lo dice molto molto chiaramente Almada nell'introduzione al volume, che c'è un piccolo saggio di questo signore che praticamente è quello che ha scoperto gli archivi del Condor, e lui all'inizio dice proprio questo, dice: guardate che quello che sta succedendo in Europa, il modello di politica economica che sta succedendo in Europa, è lo stesso che abbiamo subito noi in America Latina, quindi state attenti, voi state perdendo la vostra democrazia come l'abbiamo persa noi. E quindi c'è una critica molto molto chiara all'inizio del libro su questa questione. E poi c'è il saggio della Maggiorelli, che mi dispiace molto che non sia venuta alla fine, che praticamente pone l'accento su un'altra questione di cui oggi non abbiamo ancora parlato, ma che io direi che sarebbe il caso di ne avevi accennato te prima, cioè questo fatto del ruolo della Chiesa Cattolica. E noi abbiamo questa cosa che io assolutamente non sapevo, che la Maggiorelli racconta molto bene, che è vero che ci sono centinaia di figli rubati in America Latina, ma ci sono 300.000 figli rubati in Spagna. E 300.000 figli rubati in Spagna con una complicità terribile da parte della Chiesa Cattolica, e di questa cosa si parla pochissimo, cioè 300.000 sono una cifra assurda. E quindi abbiamo questo piccolo volume che ha da un lato questa denuncia della razionalità economica, alla fine abbiamo questa denuncia della Chiesa Cattolica, della religione della Chiesa Cattolica, e al centro abbiamo queste storie terribili delle donne, perché poi al centro ci sono le donne, che hanno subito questa cosa terribile del rapimento del proprio figlio, dell'uccisione, e in questa cosa delle donne che vengono rapite, vengono fatte partorire e poi gli viene rapito il figlio, c'è qualcosa di terribile, che è proprio l'idea che la donna non conta, che la donna è solo madre, cioè la donna è solo madre, l'importante è che perché viene tolto il figlio alla madre, perché per la Chiesa Cattolica diciamo, la vita inizia al concepimento, quindi in quanto la vita inizia al concepimento, una donna, una guerrigliera, una oppositrice può essere rapita, ma non gli può essere ucciso il figlio. Allora la dobbiamo far partorire, va bene? Gli dobbiamo rapire il figlio. Poi lei può anche essere uccisa, vengono uccise dopo. Il figlio viene dato a delle famiglie che possono allevarlo, che lo allevano con l'ideologia cattolica e l'ideologia occidentale, cosiddetto occidentale. E chi è che dice questa cosa terribile, dicendo: è inutile stare a cercare questi ragazzi, perché se sono stati tolti da delle madri sciagurate, che erano delle rivoluzionarie, che probabilmente avevano anche pochi soldi per allevarli, e sono stati comprati a fior di denari da delle famiglie benestanti stanno bene lì, perché devi andare a rivangare una cosa del genere? E questa è una cosa agghiacciante anche perché a me un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo di questo libro è che questi ragazzi, io mi sono sempre posto, leggendo appunto, affrontando questo problema, mi sono sempre chiesto, ma questi ragazzi da un lato tu gli dai un trauma perché gli dici che vivono in una famiglia che non è la loro, gli scopri una vita che è completamente falsa, ma dall'altro molti di questi ragazzi, tu glielo racconta bene, sentono che nella loro vita c'è qualcosa di falso, cioè per il fatto che nella loro storia c'è qualcosa che non funziona, c'è una menzogna, c'è un qualche cosa, quindi è vero che subiscono un trauma, ma molti da questo trauma ne fanno un fatto di identità, perché è come se andassero a capire che la loro vita era falsa, cioè che loro, è vero che quei genitori in fondo non ti volevano bene, perché non ti volevano bene perché pensavano che tu fossi il male, che tu fossi il male in quanto partorito da una donna rivoluzionaria, che tu fossi il male perché c'è un pensiero, non so quanto può essere contorto questo tipo di pensiero. E ecco, sì, aspetta, adesso ti dico, perché io l'ho trovato veramente. E riguardo alla Chiesa Cattolica, io voglio aggiungere un'altra cosa, che al di là della cattiveria dei singoli prelati, del Papa, eccetera, ma noi dobbiamo fare i conti con una storia, che è la storia della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è sempre stata a braccetto con tutte le dittature. Cioè noi abbiamo che la Chiesa Cattolica si è opposta alla dichiarazione dei diritti dell'89 perché non voleva i diritti dell'uomo, in quanto loro dicevano che i diritti vengono da Dio e non è l'uomo che riconosce i propri diritti, ma sono i diritti di Dio che devono essere riconosciuti. Quindi si è opposta alla dichiarazione della Rivoluzione Francese, ha fatto, in Italia sappiamo benissimo che ha fatto il concordato, è andata perfettamente d'accordo con Mussolini. Per quello che riguarda la dittatura di Franco, la Chiesa Cattolica considerava la Costituzione franchista il modello ideale di Costituzione perché non riconosceva il diritto alla libertà religiosa e alla libertà di pensiero. Si è distaccata dalla Chiesa, dal modello della Chiesa di Franco soltanto pochi anni prima, un paio d'anni prima che cadesse la dittatura. Perché si è distaccata? Perché praticamente a un certo punto la Chiesa Cattolica ha cominciato a pensare che il diritto alla libertà religiosa potesse essere un grimaldello per distruggere l'economia dell'Est. Quindi non è un'acquisizione di dire ognuno la può pensare come vuole, ma è un modo strumentale perché in quel modo potevano rivendicare il diritto alla libertà religiosa nei regimi dell'Est. E poi abbiamo appunto il compromesso con la dittatura dell'Argentina, perché tu racconti benissimo questi preti che stanno accanto ai dittatori e quindi ecco, c'è questo compromesso terribile, cioè il tuo volume in questo inizio, in questa fine, in questa cosa c'ha una struttura proprio di denuncia, cioè una denuncia di una politica economica, una denuncia di una struttura religiosa e al centro diciamo ragione e religione che attaccano l'identità delle donne, e l'identità delle donne emerge in un modo fortissimo, perché poi, scusate che io qui, perché un'altra cosa che mi ha molto colpito, mi ha molto colpito è questa cosa che gli uomini a volte dicono alle loro donne, dice ma noi facciamoci la nostra vita, tanto questa storia, questi figli non li ritroviamo, no? Non li possiamo ritrovare, invece queste donne no, volevano comunque andare a fondo e sono state una forma di opposizione, una spina nel fianco dei regimi, una spina di fianco non violenta e perenne che ha dato un contributo anche alla denuncia. E diciamo, ecco, noi diciamo, secondo me noi dovremmo fare un lavoro doppio, da un lato questa ricostruzione della memoria che è fondamentale e dall'altro questo approfondimento della ricerca delle strutture di pensiero che stanno dietro alla violenza fisica, perché c'è la violenza fisica, ma la violenza fisica è sempre giustificata da una mentalità, da un pensiero sull'identità umana che troviamo sia nel pensiero di Friedman sia nel pensiero della Chiesa Cattolica, che poi distruggono le nostre società. Io volevo aggiungere un paio di cose a quello che stavi dicendo, anzi era forse un po' un'obiezione, perché tu hai parlato di guerrigliere a cui venivano sottratti i figli. Bisogna fare molta attenzione perché qui parliamo di 30.000 desaparecidos, ma i guerriglieri in realtà erano una parte infinitesimale di questi 30.000. Ho usato un termine sbagliato, oppositori, ma neanche. Ma neanche. C'è questa frase che è famosa, io l'ho scritta perché la voglio citare proprio così come è stata detta, perché è agghiacciante. C'è un certo generale iberico San Gian dell'esercito argentino che ha fatto proprio il suo manifesto del suo pensiero. Quando prese potere la dittatura, lui dichiarò: prima uccideremo tutti i sovversivi, poi i loro collaboratori, quindi i simpatizzanti, poi gli indifferenti e infine chi esita. Questo vuol dire che poteva rientrarci chiunque in questi 30.000 desaparecidos. Io personalmente ho una carissima amica argentina che vive in Italia da tantissimi anni, perché lei, quando ci fu quell'episodio che è stato raccontato nel film La notte delle matite spezzate, di questi ragazzi che avevano fatto una protesta per il biglietto dell'autobus e furono i primi presi, torturati, e su 6 mi pare erano 5 morirono in carcere, lei scappò via e venne in Italia perché lei era stata un'insegnante di tirocinio di questi ragazzi. Semplicemente per questo, no? L'unico contatto che lei aveva avuto. Da allora lei si è trasferita in Italia e non è più rientrata in Argentina. E ha fatto benissimo, secondo me, perché con quell'aria che tirava probabilmente sarebbe andata a finire anche lei nella lista dei desaparecidos. L'insegnante, secondo questa mentalità, è quella che può aver instillato il germe della sovversione in queste menti. Per cui... Che volevo dire un'altra cosa, in questo momento mi sfugge perché sono stata presa da questo ricordo personale di questa mia... Giusto, a proposito dei figli che riconoscono la loro identità. Io un altro conoscenza personale, ho avuto il piacere di incontrare un giovanissimo deputato argentino che si chiama Orazio Pietro Gallo, cognome assolutamente italiano. Chiunque lo veda non può che rimanere colpito da una sua caratteristica: è uno degli omoni più grandi che abbia visto in vita mia, è alto 1,90 m e tutto in proporzione, diciamo, spalle grandi, eccetera. Lui per 17 o 18 anni della sua vita, adesso non ricordo esattamente, non si è chiamato Orazio Pietro Gallo, aveva tutto un altro nome e un altro cognome. Viveva in una famiglia, viveva in questa famiglia in cui lui si sentiva a disagio. Prima di tutto fisicamente, perché era una famiglia dove tutte quante le persone erano di altezza normale, aveva anche un fratello che era di altezza normale, vestava col suo 1,90 m sopra tutti quanti, ma poi si sentiva a disagio perché non c'era proprio trasporto, non c'era emotività insieme con le persone di questa famiglia. E quindi un giorno, leggendo uno dei tanti annunci che le nonne mettevano sui giornali, avevano lanciato questa campagna che si chiamava Sai chi sei? Mettendo proprio il dubbio alle persone che avevano a loro volta dei dubbi sulla propria identità, perché si contattassero loro e potessero fare degli esami, degli accertamenti, delle indagini, ha contattato le nonne. Ed è venuto a sapere, attraverso esame del DNA, di essere figlio di questo signor Pietro Gallo, che è un desaparecido, eccetera, e quindi ha lasciato questa sua famiglia. Ed è anche venuto a sapere il motivo di questo suo disagio, poi, perché c'erano proprio dei motivi ben specifici. La sua storia è molto particolare. Lui era nato in carcere, appunto, e una delle persone che dirigevano il carcere aveva una figlia che in quel periodo era rimasta incinta, aveva portato avanti questa gravidanza e poi aveva messo al mondo un bambino nato morto. questa ragazza è andata, giovane signora, è andata in crisi naturalmente, è assolutamente comprensibile. Questo padre militare ha pensato bene, visto che era nato questo bambino in carcere, ha detto adesso trovo io un sistema per consolare mia figlia, ha preso questo bambino e gliel'ha portato come un dono per riconciliarla con la vita. Questa ragazza, messa di fronte a questa situazione, ha avuto un rifiuto totale nei confronti di questo bambino, ha detto no, io voglio mio figlio, questo non è mio figlio, non lo voglio. E allora che cosa ha fatto questo papà generoso? Ha preso questo bambino e lo ha scaricato nelle mani della famiglia del portiere del palazzo, i quali l'hanno accettato per un senso, diciamo, di sudditanza nei confronti di questo condomino ricco e potente, e l'hanno cresciuto come figlio della loro famiglia. Logico che un bambino cresciuto in un ambiente e con una storia del genere non si potesse sentire assolutamente a suo agio in questa vicenda, e quindi fortunatamente è venuto a contatto con le nonne e ha potuto ricostruire le sue radici. Se volete fare delle domande, siamo, se qualcuno vuole intervenire. Sì, posso? Certo. Grazie. No, prima di tutto volevo ringraziarvi per i vostri interventi molto interessanti, a cominciare da quello dell'economista Ventura, che ho molto apprezzato, perché il suo intervento chiarisce molti degli aspetti anche di quella della vicenda argentina, cioè che dietro l'intervento dei militari ci fosse un progetto economico ben preciso. È stato molto interessante il suo intervento. Quella caccia alle streghe che c'è stata nei confronti di quelli che loro chiamavano i sovversivi, dietro quella caccia alle streghe si nascondeva il tentativo di imporre, come poi riuscirono a fare, un modello economico ben preciso. Loro in realtà quello che volevano era cancellare, come lei ha ben detto nel suo intervento, quelli che erano qualsiasi tipo di forma di conflitto sociale. E ricordiamo che la maggior parte dei desaparecidos proveniva dall'area degli studenti, degli operai, molti dei quali erano dei sindacalisti impegnati, che furono desaparecidos e furono vittime della dittatura. Molto bello anche il richiamo alle vicende più recenti, la Grecia per esempio, no? Quindi sono passati 40 anni, ma c'è una regia, c'è un modello che accomuna queste vicende. Poi bisognerebbe anche aggiungere il ruolo che ebbe il Fondo Monetario Internazionale della vicenda argentina, del default del 2001, eccetera, eccetera. E sul libro io faccio i complimenti a Federico Tulli, perché ho trovato il libro estremamente interessante. In questo piccolo libro si condensano veramente pagine di grandissimo interesse. Io per motivi personali ho divorato nel corso di questi anni molti libri sulla dittatura argentina, ma trovo questo libro veramente interessante, ha grandi meriti, tantissimi, a cominciare dal fatto che accende ai riflettori sulla vicenda del processo Condor, di cui pochi parlano, ma che è molto importante. Questo libro ha il merito appunto di farlo e di inquadrare la vicenda argentina all'interno di un contesto più ampio, che è quello appunto dell'esistenza di un piano Condor, cioè di una internazionale del terrore che univa 7 paesi della regione dell'America Latina, e quindi delle forze di polizia, militari, che praticamente avevano come unico obiettivo quello di imporre un certo sistema politico, sociale ed economico. E ti volevo fare una domanda, Ventura lo ha sottolineato prima, vorrei che ci dicessi qualcosina di più senza entrare troppo nei dettagli. Uno dei meriti del tuo libro è quello di una vicenda che magari non tutti conoscono, è quello di ricordarci che la vicenda dei figli dei desaparecidos argentini affonda le sue radici ideologiche su quello che accadde della Spagna di Franco. Ecco, magari se ci potevi dare qualche dettaglio in più su quello che avvenne durante gli anni di Franco a proposito dei figli rubati. E poi sai cosa volevo chiedere riguardo all'introduzione del reato della tortura nel nostro ordinamento? A che punto siamo per quanto riguarda questa battaglia? Siamo ancora molto lontani, immagino. Grazie. Grazie. Allora, dunque, la postulazione di Simona Maggiorelli è nata per questo motivo, cioè noi avevamo fatto insieme diciamo delle ricerche sulla questione dei figli rubati in Europa, o comunque anche storiche, cioè non è una pratica che è nata nel secolo scorso, cioè radici antiche, insomma, quella di rubare i figli, per, come diceva anche Andrea, soprattutto l'obiettivo è quello di distruggere l'identità della donna, cioè fiaccarla, colpirla nei sentimenti più, ovviamente, più viscerali, negli affetti più profondi, per proprio annullarla completamente come essere umano. E, nel 2009 è uscito in Italia un libro per Castelvecchi, non è pubblicità ma se la merita tutta, scritto da Piero Badaloni. Badaloni era, dopo essere stato presidente della regione Lazio, è rientrato in Rai e l'hanno mandato, come si fa in certi casi, l'hanno mandato inviato in Spagna, e lì si è imbattuto in una storia che stava venendo alla luce proprio in quel momento, in quei mesi, che lui è sembrata giustamente una storia degnissima di essere raccontata, e soprattutto in un libro, anche perché i giornali, quelli spagnoli in parte, ma soprattutto quelli italiani, non intendevano coprirla, non risultava interessante. Ed era la storia, appunto, cioè cominciavano a finalmente, dopo, siamo nel 2008, quindi dopo circa 70 anni, venivano alla luce finalmente le prime conferme che durante tutto il franchismo e nei 20 anni successivi alla morte del generale, quindi tra il 75 e il 96, la Spagna era stata una sorta di crocevia mondiale delle adozioni illegali. Quindi il magistrato incaricato delle prime indagini, incaricato di verificare le denunce che comunque erano state insabbiate, che ritornarono alla luce, questi figli ormai quarantenni, cinquantenni che bussavano a tutte le porte, insomma, il magistrato incaricato di fare luce su questa storia, di iniziare a far luce, era Baltazar Garzón. Garzón è il magistrato spagnolo che nel 1998 ha incriminato e fatto arrestare a Londra Pinochet. L'indagine, e adesso non ricordo se il libro di Badaloni arriva anche a questo punto, però comunque Garzón inizia evidentemente a toccare diciamo degli interessi su cui non aveva la concessione di indagare, e la sua inchiesta dura 6-7 mesi. Dopodiché, con una storia che è molto simile a quella che ha inguaiato il sindaco di Roma Ignazio Marino, cioè roba di scontrini, potrebbe essere una cosa del genere, viene destituito dalla magistratura oggi attualmente è il presidente di una fondazione che si occupa di sostenere tutti coloro che hanno la necessità di ricostruire la propria storia in Spagna, dove è molto difficile ricostruire la propria storia di figli rubati, perché c'è una legge che vieta espressamente nel caso delle adozioni al figlio, cioè lo sono appunto anch'io, conoscere i suoi genitori naturali, quindi questo ovviamente mette un paletto a qualunque cosa. Comunque Garzón incrimina e fa arrestare Pinochet e diventa il magistrato più famoso del mondo, poi andrà alla Corte Penale Internazionale, mi sembra, dell'Aia, dove contribuisce a tante storie, a far luce a tante storie. non gli succede nulla per tutte. Quando è che cade? Quando inizia ad indagare sulla storia dei figli rubati in Spagna. L'ipotesi di questa, la mia ipotesi, l'ipotesi di questa caduta è che l'istituzione più coinvolta nell'operazione economica ma anche ideologica del furto dei bambini in Spagna è la Chiesa Cattolica Spagnola. Quindi quando ha iniziato a indagare sulla Chiesa, Garzón è stato fatto fuori, lo dico in maniera brutale, ma è così. Le cifre, le stime, le ha fatte quelle, i numeri che diceva Andrea, circa 300.000 storie di figli rubati in Spagna, le ha fatte Garzón appunto, ma sono a ribasso, nel senso che ovviamente ha indagato talmente poco che non tutto è riuscito a ricostruire, assolutamente. L'origine di tutta questa storia sta nella metà degli anni 30, quando uno psichiatra spagnolo che si chiama Vallejo Nájera finisce la propria formazione professionale in Germania, siamo a metà degli anni 30, era la Germania di Hitler, e ritorna in Spagna. Ritorna in Spagna e mette nero su bianco una teoria che nella postulazione di Simone è sintetizzata, ma c'è una frase significativa, cioè una teoria secondo cui per questo Vallejo Nájera esisteva una malattia genetica che si legava all'esistenza del marxismo, cioè esisteva una sorta di gene del marxismo. E quindi che c'era questa tara in una parte della popolazione spagnola, e che un metodo molto efficace e diretto per medicare questa, cioè anzi impedire la diffusione di questa malattia, era quello di strappare dalle braccia delle madri appunto repubblicane i figli neonati, ma appunto in Spagna erano anche 6-7 anni, questa pratica riguarda anche bambini 6-7 anni addirittura, e reinserirli in famiglie, virgolette, di provata fede cattolica, cristiana e cultura occidentale. Quindi nell'inchiesta di Simona andiamo a ritrovare le radici ideologiche di quello che poi accadrà in Argentina. E c'è una sorta di dissociazione, perché questo signore parlava di gene del marxismo, e poi l'idea era quella che il bambino potesse essere rieducato, cioè appunto strappato da un certo ambiente e immesso in un altro per essere rieducato, e quindi per interrompere appunto la diffusione. Quindi da una questione genetica si passa a una questione non più genetica, quindi più di pensiero, insomma di trasmissione del pensiero sul modello platonico, quindi tavoletta di cera da plasmare secondo certi criteri. Il franchismo, dunque la dittatura di Franco dura quasi, questi sono 39 anni, mi sembra 36 anni, 36, dal 39 al 75, poi fino agli anni 50 le stime di Garzón dicono che sono scomparsi, molto meno della metà dei 300.000 stimati. Diciamo che questa metà e anche qualcosa di più di bambini rubati in Spagna risale agli anni successivi alla dittatura fascista, clerico-fascista di Franco. Dico clerico-fascista perché la Chiesa Cattolica Spagnola, ha detto anche Andrea, nel 1937 aderì proprio formalmente alla battaglia di Franco contro appunto i repubblicani. E dove sono stati, che cosa è successo dopo la morte di Franco? È successo che quello che per 40 anni era stata più o meno una sorta di battaglia politica, appunto, le donne repubblicane facevano come le staffette partigiane, cioè erano il collegamento tra la vita normale e i giovani compagni che nella clandestinità cercavano in qualche modo di far cadere la dittatura, quindi gli rubavano i bambini anche per, appunto, come dicevo prima, distruggere proprio, cioè interrompere questa catena, attaccando gli affetti. Ovviamente cadeva anche il sostegno a chi si opponeva con le armi fisicamente al dittatore. Questo sistema, che è durato per 40 anni, funziona talmente bene, evidentemente, che quando cade Franco, le stesse cliniche che, presso cui avvenivano questi, avveniva il passaggio, quindi avvenivano i furti, ne hanno fatto un business. Ne hanno fatto un business che è durato, l'ultima clinica illegale è stata chiusa appunto nel 1996, in silenzio, cioè quasi di nascosto, perché poi dobbiamo aspettare altri 15 anni quasi, 14 anni, per vedere un magistrato che può, cioè che è libero di iniziare ad indagare, ma appunto dura molto poco. E da chi erano gestite queste cliniche? Erano tutte facevano capo a congregazioni religiose cattoliche, cioè le stesse suore che con Franco prendevano il bambino dalla giovane madre e lo portavano dal medico che faceva il certificato falso di morte, poi come poi accadrà in Argentina anni dopo, poi saranno le stesse suore che in cliniche private contribuiranno a migliorare il fatturato appunto di queste cliniche in maniera agghiacciante. Simona racconta, cioè lo racconta, ecco, insomma, leggetelo, nel senso che Simona lo racconta, e questa è la cosa che mi piace molto raccontare, attraverso la voce di alcuni dei più grandi romanzieri spagnoli contemporanei, cioè Mudena Candes per esempio, e sono stati loro i primi, non i giornalisti, non la magistratura, sono stati gli scrittori per primi attraverso i loro romanzi a portare alla conoscenza proprio dell'opinione pubblica dell'esistenza di questa prassi, e quindi a un certo punto l'opinione pubblica si è mossa e quindi a quel punto lo Stato non poteva più far finta che, di non sapere, e Garzón fu incaricato, questa è la cosa, e questa sì appunto è la chiusura del libro. Il libro si chiude la postfazione di Simona si chiude con una quindicina di righe di intervista a Massimo Carlotto, e la domanda a Massimo Carlotto è stata: ma perché tu non ci sei andato? Perché Massimo Carlotto è il nipote di Estela Carlotto. Come mai tu non ci sei andato quando il Papa ha invitato tutta la tua famiglia e così via? Dice: beh, guarda, non ve lo posso dire, perché diciamo ho in mano prove certe, per cui appunto, anche per ritornare alla tua domanda iniziale in qualche modo, questo Papa ha tanti scheletri nell'armadio da nascondere, e per mettere la mia faccia lì accanto a questa persona, adesso lo dico in un altro modo, ma insomma, diciamo nel libro scritto, il senso è questo. Estela ha un ruolo anche politico, quindi ovviamente le nonne continuano a cercare i nipoti, e mettersi a fare la lotta contro Bergoglio, specialmente in questo momento, ovviamente non ha alcun senso. Io non ho alcun ruolo politico nella vicenda, quindi la faccia accanto a questo signore non ce la metto. Se non ci sono altre domande possiamo anche chiudere. Vi ringrazio davvero tanto, ringrazio Patrizia, ringrazio Andrea, perché ecco, ci tenevo ad averli con me, e so di aver fatto bene a invitarli, verranno confermati. Grazie.